Capitolo 4, 19 maggio 1525. Cavalco, con addosso la divisa dell'infamia. È la divisa a proteggermi ora. Forse è astuzia, devo abituarmi, forse. Maschera di mercenario dell'infamia. Quando l'infamia trionfa, nient'altro. Devo abituarmi, non avevo mai ucciso prima. Ancora un tramonto a screziare campi e colline di riflessi purpurei. Rendere più vaghi i contorni, dissolvere le certezze, se mai ne erano rimaste. Molte miglia percorse, sempre a sud, verso Bibra, in sella, a una tenue speranza. Le campagne attraversate portano i segni del transito dell'orda assassina, come i resti di una sciagura degli elementi. Terreni mai più fertili, ferraglie e ogni sorta di residui della truppa immonda. Qualche cadavere a marcire, carcasse di disgraziati capitati sul cammino. Manipoli di mercenari sguinzagliati da chissà quale massacro verso una nuova razzia. Da quando il buio ha inghiottito l'orizzonte e le ultime ombre, proseguo a piedi nella boscaglia. Scorgo tra gli alberi i bagliori in lontananza, forse altri bivacchi. Pochi passi ancora e un rumore sordo mi viene incontro. Cavalli, clangore di corazze, riflessi di torce sul metallo. L'animale scalpita, devo tenerlo a freno. Mentre cerco riparo dietro un tronco. Resto in attesa, accarezzando il collo del cavallo per alleviargli la paura. Il rumore è un fiume in piena, avanza. Zoccoli e armi scintillanti. Un'orda di fantasmi scorre a pochi metri da me. Finalmente, il fragore si fa più debole, ma la notte non torna a tacere. La luce oltre il bosco si è fatta più intensa, l'aria è ferma, ma le cime degli alberi ondeggiano. È il fumo. Mi avvicino fino a sentire il crepitio di legna bruciata. Gli alberi si aprono a un tratto sulla distruzione assoluta. Il villaggio è avvolto dalle fiamme. Il calore mi investe la faccia. Piovono piccole brace e fuliggine. Una zaffata dolciastra, odore di carne bruciata mi rovescia lo stomaco. Allora li vedo. Corpi carbonizzati, sagome indistinte abbandonate al rogo, mentre il vomito sale in gola, taglia il respiro. Le mani avvinchiate alla sella. Portami via, a capofitto nella notte, fuggi dall'orrore e dalla presa immonda dell'inferno.